Sono gli appuntamenti anche per quello che è un pre-estivo, se vogliamo, anche se l'appuntamento qui è in piena estate, anzi la comprende in maniera totale. 3 luglio, quindi fino all'11 settembre, è la 34esima edizione dell'Emilia Romagna Festival, classico e contemporaneo. Andremo in approfondimento con il direttore artistico Massimo Mercelli, disponibile ai microfoni di Radio Città Fusico in conferenza stampa per anticipare questo percorso. Per quanto riguardano 55 appuntamenti in 20 comuni, 37 location, più di 600 artisti coinvolti, è un itinerario musicale, unisce la bellezza dei luoghi, la magia della musica, rompe i confini temporali, abbraccia una multidisciplinarietà assolutamente estesa. Da quanto riguarda la 34esima edizione, quindi, è già un festival che si conferma con un'importanza culturale ben solida, e dai primi appuntamenti chiare le coordinate. Intanto aggiungo che vi sarà un'anteprima il 27 giugno al chiostro del Palazzo Vescovile di Imola, con una presenza Ramin Brahmi che già abbiamo trovato all'interno dell'Emilia Romagna Festival. L'inaugurazione ufficiale sarà il 3 luglio all'Abbazia San Mercuriale di Forlì ed è affidata a un grande della musica di straordinaria attualità, direi tutti i tempi, Claudio Monteverdi, uno dei suoi capolavori, Il Vespro della Beata Vergine, un concerto che è una dichiarazione d'amore verso la grande musica, qui interpretato da un ensemble, punto di riferimento nell'esecuzione della musica antica, il Venice Monteverdi Academy, insieme all'orchestra Lorenzo da Ponte. Insomma, la classicità che diventa contemporaneo, il filo conduttore di questa 34esima edizione. Sentiamo appunto anche l'anticipazione che ne dà il direttore artistico Massimo Mercelli, che ho contattato in conferenza stampa, anzi anticipando la conferenza stampa stessa. Iniziamo questa conversazione in attesa di conferenza stampa con Emilia Romagna Festival per questa nuova edizione da giugno a settembre, quindi siamo con il direttore che innanzitutto saluto e ringrazio per questa disponibilità. Buongiorno, ben trovato. Buongiorno a tutti gli ascoltatori. Iniziamo con i fili conduttori di questa edizione. Ma il filo conduttore è il titolo, classico e contemporaneo, perché vorremmo un po' scardinare questa concezione del classico vecchio, classico e contemporaneo, a partire dall'inaugurazione di questa edizione 2024, che è la 24esima, con uno dei brani che sono fra le colonne della musica, che è Il Vespro della Beata Vergine di Claudio Monteverdi, uno dei capolavori assoluti della musica, un brano che ha in sé una modernità, contemporaneità e uno sguardo al futuro che pochissimi compositori sono riusciti a raggiungere. Abbiamo le sedi, che è un aspetto molto esteso, che va veramente per tutta la regione. C'è qualche novità tra le sedi del festival? Le sedi sono aumentate, sono 20 comuni, 37 sedi diverse, e anche il numero degli appuntamenti chiaramente aumentato, sono 55, sempre con un concetto di presenza sul territorio altamente radicata, specie in questi ultimi anni nei comuni che hanno avuto sofferenze dovute all'alluvione e al terremoto, perché abbiamo dei comuni in cui per esempio abbiamo dato per tanti anni il premio alla carriera che praticamente sono borghi chiusi, quindi ci attiviamo addirittura per fare concerti nelle strade. e questo è un valore aggiunto ulteriore. Seguiremo ovviamente il programma di questa 24esima edizione, è una cifra tonda fra l'altro, 2024-24. Sì, sì, 2024-24, esatto. È cabalistica la cosa, se vogliamo. Speriamo porti bene. Esattamente. Abbiamo già dato. È il momento di ricostruire, continuare nel ricostruire. Sì, però è un mando molto difficile perché ci sono ancora sedi danneggiate e sedi che usufruiscono del PNR e sono diventate dei cantieri, quindi c'è un calo di disponibilità. Non è stato un anno facile per collocare tutta questa serie di fantastici concerti. Trying to get rid of me, but we reason critically and carry the banner of victory, no diggity. One love conquers misery, we chant as Amade against ignorance and hate. We demonstrate the power of the seventh state, perfection of the faith, climbing over heaven's gates. Salam. Cercando di coprire tutte le rassegne, beh certo, è ovvio il mio refuso, ma c'è un motivo, ho detto 34esima edizione e 24esima edizione per quanto riguarda l'Emilia Romagna Festival. Presenteremo in Jazz Live una rassegna invece che è giunta alla 34esima. Sto preparando tante cose, per cui perdonate questi attimi di imprecisione. Per l'Emilia Romagna Festival 24esima edizione, ho aggiunto 10 anni, ma mi correggo immediatamente, ovviamente sperando che sia di buon auspicio, va da sé. Tromba Eric Truffaut per Blue Note Record dal disco Bending New Corners che stiamo ascoltando, tra l'impro jazz, queste sonorità, la tromba, l'elettronica, le parti hip hop. Intanto che ribadisco, è la 24esima edizione, la 34esima sarà per un'altra rassegna e nel mese di maggio che seguiremo passin passino. Sto parlando di Angelica e ho fatto tra i comunicati stampa, va da sé, sto cercando di seguire più appuntamenti possibile, per cui insomma dai, mi perdonerete per questa distrazione, del resto non è certamente la prima, temo che non sarà neanche l'ultima. Intanto Baka Beyond ci portano un po' di musica. Per informazione sul sito www.emiliaromagnafestival.it per seguire tutti i percorsi di questa estesa rassegna che ha diversi motivi di sonorità, tutti i temi che vanno dalla classica al jazz, al pop, alla musica etnica, dal teatro in musica alla world music. Un cartellone alla ricerca di una definizione di classico. Nella seconda parte di intervista entreremo nel programma per questa 24esima edizione di Emilia Romagna Festival. In presentazione seguiamo ovviamente tutto quello che è musica e teatro nell'avvicinarsi, speriamo, della bella stagione. Back Behind, I See Winter, tra poco. Shimmer green. abbiamo concerti, parliamo di musica classico e contemporaneo. Ok, vi è anche qualche altra espressione in ambito artistico? Beh, il festival sta rompendo i confini temporali ed è sempre più multidisciplinare, e questa è una conseguenza del cambio della società, del cambio generazionale, delle esigenze. Quindi si può accompagnare un pubblico, un nuovo pubblico, sempre mantenendo il concetto di educazione. E per quanto riguarda l'inizio ufficiale? L'inizio ufficiale appunto è il 3 luglio nella chiesa di San Mercuriale a Forlì, con questo straordinario capolavoro che è Il Vespro della Beata Vergine di Claudio Monteverdi, a cura della Monteverdi Venice Academy. Ci sarà la sua presenza anche come artista, oltre che come direzione? Il meno possibile, come sempre. Quando sono coinvolto in brani che sono scritti per me, e grazie al cielo ho diversi premi Oscar che mi hanno rinchiato dei brani, oppure se sono progetti come quello dei Tableau Vivant, ai quali ho partecipato alla ideazione, nel mio caso con la scelta delle musiche. Grazie per questa conversazione e buona kermesse, buon festival. Sempre un piacere, cari saluti a tutti e venite all'Emilia Romagna Festival dal 3 luglio all'11 settembre. Let it all flow, stay tuned. Sophie Moleta, Stay Gold. Diamo una colonna sonora a questo classico e contemporaneo anche dal Breakfast Club. Dal 3 luglio all'11 settembre seguite il programma www.emiliaromagnafestival.it. andiamo in pubblicità, siamo riusciti a mettere un po' d'ordine tra tutti gli appuntamenti in scena anche per questo venerdì 26 aprile. Restate in ascolto, a tra poco con la prima colazione in diretta. Si alza al sipario con il Breakfast Club, a tra poco. It really suits you, don't doubt. Your reason has never been